Benvenuti. Oggi facciamo un'immersione che è quasi un viaggio nel tempo, vero? Decisamente. Un salto di più di 30 anni tra due mondi tecnologici. Esatto. Mettiamo fianco a fianco due modi di creare fiabe con un computer. Da una parte un software ipertestuale, siamo nel 1991, dall'altra un'applicazione moderna di oggi basata sull'intelligenza artificiale. Le nostre fonti sono perfette per questo confronto. Un articolo accademico d'epoca che descrive questo progetto, Hyperfiaba, e poi il manuale utente di un'app attuale, Fiaba Universale. E la nostra missione qui non è solo capire come funzionano tecnicamente, vogliamo scavare un po' più a fondo. Certo, vogliamo capire come è cambiata proprio la nostra idea di creatività, di scrittura aiutata dalla tecnologia. Sì, è un percorso che ci porta da un ambiente di apprendimento, come veniva definito allora, a un generatore quasi automatico di storie. Pronti a partire? Prontissima. Allora, partiamo da oggi, da Fiaba Universale. L'approccio, leggendo il manuale, mi sembra molto molto strutturato. Sì, si basa sulle famose 31 funzioni narrative di Vladimir Propp. Quindi chi la usa non parte da un foglio bianco, che può spaventare. Ah, ok. Quindi hai una specie di menu di eventi tipici della fiaba, cose come allontanamento, danneggiamento, lotta. Esatto. Lieto fine. È un punto di partenza affascinante. Invece di chiederti cosa vuoi scrivere, ti chiede quali mattoncini della storia vuoi usare. L'interazione è tutta lì, quindi. Si selezionano le funzioni, gli snodi della trama, e per ognuna cosa si fa? Si aggiunge un dettaglio. Proprio così. Un'idea grezza. Per la funzione lotta, per esempio, puoi scrivere, non so, l'eroe combatte un drago verde che sputa ghiaccio. Capisco. Si imposta la sceneggiatura. E a quel punto l'utente inizia a scrivere la storia basandosi su questi appunti. No. Ed è qui che, diciamo, avviene la magia tecnologica. L'utente è un regista. Definisce la struttura, i momenti chiave. E poi? E poi il software fa due cose. Prima assembla tutte queste informazioni in quello che chiamiamo prompt. Cioè le istruzioni per l'intelligenza artificiale? Esatto. Un'istruzione complessa per un modello AI. Le fonti citano Ollama. E poi ti presenta un bottone. Scrivi fiaba. E l'utente clicca e l'AI scrive tutto. Proprio così. Trasforma la sceneggiatura in prosa. Il grosso del lavoro di stesura, delle frasi, è delegato alla macchina. Ma non si ferma al testo, vero? Il manuale parla anche d'altro. No, no. È un pacchetto multimediale completo. Oltre al testo, genera 3 prompt per immagini. Cioè? Descrizioni da dare a un generatore di immagini. Sì. Per illustrare l'inizio, il climax e la fine della storia. E la cosa più curiosa, crea persino un video prompt. Un video prompt? Per fare cosa? Per realizzare quello che viene definito uno spot pedagogico, un video breve che riassume la morale della fiaba. Uno spot pedagogico? È interessante. Sembra tutto orientato a creare un contenuto finito pronto all'uso. Assolutamente. L'obiettivo è il risultato. E per capire quanto sia radicale questo cambiamento, dobbiamo fare quel salto indietro. Andiamo a Torino, 1991. Lì un gruppo di insegnanti aveva il problema opposto. Non come ottenere un prodotto, ma come aiutare gli studenti nel processo. Proprio così. L'articolo del 91 è chiarissimo. Nasce da un'esigenza concreta delle scuole. Le scarse competenze di scrittura degli allievi. E i programmi di videoscrittura dell'epoca non aiutavano. I primi word processor. Aiutavano, ma solo per la revisione, per quella che l'articolo chiama la manifestazione superficiale del testo. L'ortografia, la sintassi? Esatto. E magari per fare delle semplici scalette. Ma c'era un buco nero. Quale? La fase di ideazione. Il momento in cui le idee prendono forma, in cui si esplorano le possibilità. Lì quei software non offrivano nulla. Era un foglio di carta potenziato. E Hyperfiaba nasce proprio per riempire quel vuoto. E la tecnologia che scelsero fu l'ipertesto. Oggi per noi è scontato, è il web. Ma nel 91, per un utente normale, che idea era? Era rivoluzionaria. Immagina che prima un documento era una cosa chiusa. L'ipertesto permetteva di creare dei link, delle connessioni. L'idea di Hyperfiaba era usare questa tecnologia per creare un ambiente di apprendimento. Un ambiente, non solo un programma. Esatto. L'articolo parla di 3 spazi logici interconnessi. C'era lo spazio della stesura, il foglio di lavoro, quello della progettazione, con le scalette, e poi il cuore del sistema, un terzo spazio per l'ideazione. Una specie di laboratorio creativo. E cosa c'era dentro? Di tutto. Repertori di incipit, liste di personaggi, ambientazioni e, sì, anche le liste propiane c'erano già allora. Era una biblioteca di stimoli tutta navigabile. Quindi potevi passare con un clic dalla scrittura alla consultazione di una scaletta o a questo archivio di idee. Esatto. Tramite dei bottoni. Era come avere sulla scrivania il quaderno, la lavagna per gli schemi e un'enciclopedia della fantasia. Tutto collegato. Sto guardando le specifiche tecniche. Processori 8086, drive da 720K. È preistoria informatica. È quasi incredibile, vero? Come hanno fatto a far girare una cosa così complessa su un hardware così povero, come lo definisce l'articolo? È la dimostrazione di un design software intelligentissimo. Non puntavano sulla potenza, che non c'era, ma sulla logica delle connessioni e sulla chiarezza dell'interfaccia. Per l'utente doveva sembrare quasi magico. E questo ci porta dritti al punto, secondo me. Il ruolo dell'utente. È qui che il divario tra i due sistemi diventa una voragine. Assolutamente. In Hyperfiaba l'utente non era per niente passivo. Poteva esplorare i materiali e, leggo, usare un bottone prendi. Che faceva? Era un copia e incolla intelligente. Se trovavi un incipit che ti piaceva, premevi prendi e te lo portavi nel tuo testo, come punto di partenza, per superare il blotto della pagina bianca. Ok, un sistema di ispirazione. Ma l'articolo insiste tantissimo su un altro bottone, modifica. Perché era così importante? Perché era la chiave di volta di tutto il progetto pedagogico. Modifica permetteva agli allievi non solo di usare i materiali, ma di cambiarli. In che senso cambiarli? Potevano prendere una scaletta e adattarla, correggerla. Potevano aggiungere nuovi incipit alla biblioteca del sistema, a disposizione di tutti. Potevano creare una scaletta da zero e condividerla. Aspetta, aspetta. Questo è pazzesco. Quindi non erano semplici utenti del software. No, diventavano autori del sistema stesso. Hyperfiaba non era un prodotto chiuso. Era un ambiente aperto che cresceva con il contributo della comunità che lo usava. Ogni classe poteva personalizzarlo. Il software imparava dagli studenti, in un certo senso? Esattamente. Un contrasto più netto con Fiaba Universale è impossibile. Lì la struttura di prop è fissa, intoccabile. Certo. L'utente è un direttore creativo. Riempie gli spazi, ma non tocca l'architettura. E soprattutto, in Hyperfiaba, la fatica di scrivere, di mettere le parole una dopo l'altra, restava tutta all'allievo. Hai centrato il punto. L'articolo lo dice chiaro. L'obiettivo non era produrre belle fiabe, ma la produzione guidata e consapevole di testi. Voleva rendere visibile il processo di scrittura. Sì, insegnare a pensare come uno scrittore, come si passa da un'idea a una struttura, come si organizzano i materiali. Fiaba Universale invece salta gran parte di questo processo. L'automazione della stesura è il suo scopo. Eppure, in questi due mondi così distanti, c'è un filo rosso che li unisce. Vladimir Propp. È quasi ironico, vero? Le sue teorie erano materiale di ispirazione in Hyperfiaba e sono la spina dorsale di Fiaba Universale. Come mai questo modello è così longevo? Si adatta a tecnologie così diverse, l'ipertesto e l'intelligenza artificiale. Perché la teoria di Propp è, in un certo senso, computazionale, prima ancora dei computer. Scompone la narrazione in unità discrete, logiche, quasi un algoritmo. Quindi negli anni 90 era perfetta per un ipertesto. Certo, ogni funzione era un nodo, una carta da cui partire. Oggi quella stessa struttura è il linguaggio perfetto per parlare a un'IA. È uno schema logico chiarissimo da seguire per generare un testo coerente. Questo dimostra che certi modelli del pensiero umano attraversano le ere tecnologiche. E ci porta a una riflessione più ampia. La vera differenza, forse, è nel cosa pensiamo sia un computer. Spiegati meglio. Per i creatori di Hyperfiaba, il computer era un organizzatore di conoscenza, uno strumento per estendere la mente umana, per strutturare il pensiero. L'ipertesto serviva a navigare le idee. Un amplificatore cognitivo. Esatto. Invece Fiaba Universale lo vede come un partner creativo. Non solo organizza, ma genera linguaggio. Deleghi l'atto stesso della scrittura. Quindi siamo passati dall'idea di assistere l'ideazione a quella di automatizzare la stesura. È un cambio di paradigma totale. L'obiettivo sembra lo stesso, creare una storia, ma le filosofie dietro sono opposte. Mi viene in mente il detto: uno ti insegna a pescare, l'altro ti dà il pesce. È un'ottima analogia. E sollevo una domanda. Se ricevi sempre il pesce pronto, impari mai a sentire il tremito della canna da pesca? A capire le correnti? Che sono le competenze del processo di scrittura? Proprio quelle. Riassumendo, allora, da un lato abbiamo Hyperfiaba, un ambiente di apprendimento aperto, collaborativo, che voleva rendere gli studenti consapevoli del processo. Sì, il focus era tutto sul processo. La scrittura, quella vera, restava umana. Il software era una guida, un'ispirazione. Dall'altro, Fiaba universale. Uno strumento potentissimo, figlio del nostro tempo. Efficienza, prodotto finale. L'essere umano è un direttore d'orchestra, ma è l'AI che suona tutti gli strumenti. Il focus si sposta inevitabilmente dal come si fa al cosa otteniamo. Questo riflette un cambiamento enorme nel nostro rapporto con la tecnologia nella creatività. Non più solo uno schedario per le idee, ma una coautrice. Una mente altra con cui dialogare per generare la forma finale di quelle idee. Esatto. E questo ci porta a un'ultima riflessione, credo. L'articolo del 91 diceva che lo scopo non era formare scrittori, ma persone capaci di produrre testi in modo consapevole. Padroneggiare il processo, appunto. E oggi, usando strumenti come Fiaba Universale, cosa stiamo imparando? Stiamo ancora affinando la nostra capacità di organizzare il pensiero? O forse stiamo silenziosamente sviluppando una competenza del tutto nuova, più adatta al futuro? L'arte non tanto di scrivere, quanto di istruire, dirigere e curare la produzione di una mente non umana. La domanda resta aperta.